Radio XXX, fonda su web, iscriviti nella chat e fai parte anche tu del club. Si fanno discorsi seri, io qui non si scherzo, una volta entrato dentro ti causa dipendenza. Radio XXX, fonda su web, iscriviti nella chat e fai parte anche tu del club. Si fanno discorsi seri, io qui non si scherzo, una volta entrato dentro ti causa dipendenza. Questa radio spinge rap underground, spinge artisti che sanno che cos'è questo sound. Non riesce a farti sentire, non piangere dalla mamma, qui ci sta Binè che spamma, spamma, spamma, spamma. X come i raggi che ti guardano all'interno, X come segreto per diventarne eterno, X come la croce che ti vuole benedire, se ti vuoi fare conoscere avanti fatti sentire. X come il rap che spingiamo a più non posso, condotto da Binè che fa il figo col naso rosso. Ascolti insieme a noi questa radio furibonda, un'ora e mezza di cazzeggio ogni volta che vai in onda. Cazzeggio più rap, la radio perfetta, iscriviti e non perdere nessuna diretta. Spingiamo il nostro rap, senza troppi cazzi, vieni a far parte anche tu di sto gruppo di mentecatti. Radio XXX, fonda su web, iscriviti nella chat e fai parte anche tu del club. Si fanno discorsi seri, yo, qui non si scherza, una volta entrato dentro ti causa dipendenza. Yo. Radio XXX, fonda su web, iscriviti nella chat e fai parte anche tu del club. Si fanno discorsi seri, yo, qui non si scherza, una volta entrato dentro ti causa dipendenza. Pino Meo per Radio XXX. Bella Pino.